Greco? C'è qualcuno su 10? Sono io, Robè. Ciao Nata di Cacore, se ti ascolto bene. Stavo facendo lo flow con coso, con Marco, stava provando un microfono, ha fatto delle modifiche, già ci va bene, dai. Ho fatto anche FM. Comunque Nata lì, così va tutto bene, rimani e stai andando alla grande. Questa è le M93, c'ho anche le MIB più 4. Però le MIB più 4 non amplifica perché vuole. Praticamente ci vogliono due resistenze. Ho trovato una modifica nuova. Non so che se. Tu non so che se. Adesso sono con l'M93, bene va. Se ti ho detto non so che se, non certo com'è. L'MB più 4 non amplifica un tubo. È meno potente di questo. Natalì, a che distanza lo stai utilizzando? Sì, un microfono a palmo e circa un palmo, là. Quindi sei a un palmo di distanza, non ce sei con la bocca attaccata? No, mica così con la bocca attaccata. E anche con la bocca attaccata va benissimo, perché così magari attenui un pochettino i rumori esterni ed è un po' più forte la radio. Così è? Sì, perché quando lo allontani un po' dalla bocca, sì, è bella lo stesso, diminuisce un po' l'intensità della modulazione, però sento le voci delle persone che c'è vicino, se ci sono persone o televisione, si sentono delle voci. Da vicino stai andando alla grande, bella forte e non sento quei disturbi. E lo so, c'è mia moglie che è al telefono, ho capito. Va benissimo Natalino, non tocca nulla, per cui se quel baracchino va bene, io in ogni caso vado a chiedere per quello 2000, l'8001, però con questo microfono stai andando alla grande, finalmente ti sentiamo come Dio comanda. Sì, poi se mi prendo l'8001 metto questo qui, l'MB più 4. Ok, io ci sono, prova Natalino tutti e due. Che cagno in radio? Io, questo è l'87. Vicente l'omologato, ciao Roberto, ciao Natalino. L'M93 amplifica poco perché ci vuole quella modifica. Vabbè, tu modifica l'MP4, già non c'è problema. L'importante è che esca bene l'M93, che tu sia contento. Ma il tipo del baracchino, te l'ho detto, fa quell'effetto strano. Fa. Ciao Giulio, buonasera. Ciao, sono abbassa, abbassa, che è troppo forte. Abbassa Antonio, mi vedi se vedi solo. Sempre lui, eh. Capisce, ascolta, allora è baracchino monogatto, per carità. Quello proprio non vuole sentito qua, ma... C'è un beato di radio rispetto a tutti gli altri, Antonio. Lo so, guarda, se avrei messo questo microfono qui, quel baracchino monogatto, forse sei riuscito bene. Il sacco si aperta, sono sicuro che può comprare, ma con quel... qualcosa, con il suo originale... Vuole preso l'apparecchio, vado nel Model 5, però mai già non mi serve, cioè lo tengo da una parte perché mi serve solo come figura, poi del resto non me ne frega proprio niente, avrei speso 98 io, tanto per la concessione più che altro, non accederò quasi mai, uso questo, avanti vabbè, ciao anche Marco, saluto anche a te. Pure è troppo forte, puoi abbassare ancora un po' di più se ci riesci. Ok, ciao Giulio, io mi sono notato un attimino, che abbiamo fatto delle prove, chi è rimasto su questo canale? Non lo so, c'è rimasto Natalino, forse c'è Marco ancora. Marco, ci sei? Io sono qui, dai. Ciao Giulio, stavamo facendo una prova rapida, ho tolto una spugnetta da un microfono perché soffocava un po' l'audio. Vabbè, stessa cosa, adesso però anziché 4 watt sono a 10 watt circa, 10-11 watt, dai. Spero sia rimasto tutto com'era, dai. Sì, va benissimo, la radio è chiara, chiedi conferma a Giulio che è più lontano, avanti Giulio. Sì, confermo, va bene Marco, non c'è problema, va benissimo. Sì, Natalino le volevo dire, il microfono sicuramente adesso va molto ma molto meglio di prima, non ci sono dubbi, però io tenterei di mettere il microfono di fianco anziché proprio vicino alla bocca, però di fianco Natalino, prova a vedere che voglio sentire se c'è differenza. Guarda un po', adesso di fianco. Così va bene, per me va bene così, comunque va bene, comunque tienilo vicino alla bocca, perché se no entra troppo il QRA familiare, entra e allo stesso tempo diventa più bassa anche la modulazione. Comunque hai visto che tu eri disperato che non si poteva mettere un altro microfono lì, hai visto che si può mettere, altro che se si può mettere. È solo che tu bisognava trovare la combinazione giusta, i contatti, eccetera. Ecco qual era il discorso. Vai, faccio anche le MB più 4, però quello lì è più basso di questo, penso. Non ho sentito, dunque, ma comunque mi sembra un po' strano, mi sembra un po' strano che le MB più 4 sia più basso di quello, a meno che non abbatti gli astrali o qualcosa del genere. Comunque vabbè, interessante sentirti questo, va bene, questo va bene. Poi ci farai sentire anche del bimbino 4, se credi, e giudicheremo. Avanti, Gianni non c'era, Gianni ci sei? Sì, allora ho fatto un attimo in segreta perché stavo provando, ho fatto il mio televisore, ho provato attaccato e staccato tutti i canali, non c'erano fari sulla Rinza, niente. Mentre stavo provando mi hanno risposto la rete di Riffe. Ecco. Registrato Massimiliano. Va bene, d'accordo già, d'accordo. Avanti Massimiliano. Sì, capo, buonasera. Sì, adesso io e Natalino lo ascolto decisamente meglio. Guarda, questo è l'MB più 4. Ok, va bene. Prova l'altro. A Giulio lo volevo far sentire l'MB più 4. Guarda, questo è l'MB più 4. Sì, rimane leggermente più corposo, è abbastanza buono, per cui non c'è problema. Se ti fa piacere puoi usare anche quello, perché è l'ultimo anche quello, no, non c'è problema Natale. Va bene, dai. C'è Roberto, poi c'era Gianni, poi chi c'era De Masso, nessun altro, mi c'è tanto, Marco c'era anche. Avanti Massimiliano, vai per chi vuoi. Io sono in Querix, se non chiamato rimango in Querix. Ah, siamo qua, vai, vatti le gambe. Stavo facendo un paio di prove di microfono, Marco e quant'altro, là. Ok, riprendi Roberto a girare. E allora lì anche l'MB più 4 va bene, prova a avvicinarti un pochettino al microfono, vediamo se sale un po' di più la radio. È più forte il 94. Questo qui è più forte. Quello da Palmo io lo sento più forte. Confermo. Questo qui è più forte. Quello da Palmo, il cartone show come si chiama? Come si chiama? Questo è l'M93 ed è più forte dell'MB più 4, così è. Da parte mia sì, io lo sento più forte, poi gli altri non lo so come ho. Io lo sento più forte, quindi per me va bene questo. Poi per comodità puoi usare anche l'altro, ma questo è più forte. Non fermo, Natali, questo è più forte, come dice Claudio, però se ti va di usare anche l'altro, c'è bene anche l'altro, non c'è problema. È normale, in scatola me l'ha dato Antonello, è normale, non è modificato quell'MB più 4 da tavolo. Bisogna farle la modifica, due resistenze ci vogliono, non è corto circuito più, gli metto le resistenze che ci vogliono e boh, due resistenze ci vogliono e amplificare doppio. Ah, così allora, però Natali, puoi usare tranquillamente anche il più 4, tutta la saguba, anche se stai usando quella radio lì, piccolina, però la modulazione è tutto la tua di maniche. Allora uso questo, da quando mi busco le resistenze gli metto mano a quello là. Ma non è invece che, scusate il ping pong, non è invece che è troppo soffocato dove c'è la capsula, no? Ma c'è quel tondino di ferro, vuole cambiare anche la capsula, che la capsula non si fighiccia, si fighiccia normale. Positivo. Va bene, ok, vai Giulio, sì, riprendi tu e farai girare, saluto anche a Marco e tutti quelli che sono in ruota, vai Giulio. Ok, sì, Natali, quello che preferisci usa, vado bene tutti e due, no, non c'è problema, non c'è problema, ma non è l'abitudine del medico 4, non è l'abitudine delle resistenze, devi solo fare un ponte in quelle due resistenze, le lasci com'è e ci applichi un ponte tra un capo e l'altro della resistenza. La modifica deve fare così, Natali, non c'è bisogno di studiare le resistenze. Bisogna metterle alla metà, c'è un'altra modifica che sono due resistenze. L'altro che ho io ha fatto un ponte, ho fatto, no? Invece queste qui le tolgo e le metto di valore alla metà, che va meglio. Io so che si fa il ponte e basta, senza studio delle resistenze. Comunque, se tu sai che è così, vuol dire che è così, che ne so. So che si fa solo il ponte, vabbè, comunque, fai come vuoi. Avanti, Marco, ci sei ancora, sì? Dai, sono qua. Saluto tutti quelli che sono entrati a Massimiliano, forse c'era una prima e noi ci siamo spostati per provare il mic. Sì, Natali, va bene con l'uno e con l'altro, per comunità usa quello da tavolo, a te non piace tenere i microfoni da palmo e è contrario mio, dai. Io non lo so, questo qui già viene bene a prenderlo, vedo che mamma mia, è piccolissimo. Questo già mi viene bene a modulare così, anche con quello da palmo. Ma si intende pure la televisione, Natali. Ed è quello da palmo. Va bene, la ultima radio adesso, va. Ok, vai Gianni o Piro. Sì, ma ci vediamo a quello che è dato al profeta, non era l'M93? Non mi ricordo se era l'M93 o l'M95, perché mi sembra che quello che io ho dato al profeta c'è anche il bip, mi pare. Scappa, un attimo il break. E quindi ci può mettere una scappa sulla contadone e fatta di modificare, se c'è un bel forzi. No, vabbè, io non gli ho dato niente come modifica, quello era originale, quello che ho dato io. Però mi sembra, se non vado errato, che quello lì era l'M95 forse, è quello che c'ha il bip, mi pare. È normale così, che dopo che ci vuoi, allora l'apparato che lo facile così forte. Vabbè, non avete l'apparato di Rubrofetta con quello di Natalino, no? Se era Natalino, dirai, l'apparato di Rubrofetta, il cazzo va di Cifugu. Beh, anche la voce che c'ha Natalino. Kappa, vabbè, dai. Pazienza, avanti, break. Ciao, Alfa 21, mi sentito cordialità anche a te. Avanti, Natalino, per la tua ventura. Ciao Riccardi, buonasera, ben sentito. C'è stato un altro break comunque. Registrato, ma aspetta un attimino, facciamo salutare a Riccardi e poi facciamo un altro break. Avanti, Robert, prendete tutto il microfono e fai girare. Ciao Riccardo, ben sentito. Avanti il break, che voleva entrare. Oh, break. Stanno parlando, ma... Stacca, parliamo uno per volta, dai, riepiloghiamo tutti, un attimino di bianco e facciamo girare. C'è Claudio da Muro su che stava parlando, poi faremo girare a Giulio che saluterà e faremo il giro gli altri. Avanti Claudio. E Luca pure. Ciao, che da Ruggirito, ben sentito e copiare il tacchi a te. Non è possibile, non è... Scusami, quanto mi hai dato di segnale? Se sono liscio, cazzo, si attacco qualcosa da Galaxy. No, non sono liscio, dai. Mi sta aiutando il vento, ha dato la spinta alle onde. A parte a chi tocca. Vai, è registrato il premio. Vai, Alfa 20. Avanti break. Buonasera a tutti Gavino da questa parte, un saluto a tutta la ruota. Ciao Gavino, ben risentito, buonasera anche a te, avanti Massimiliano. Ciao Gavino, ciao Alfa 21, ciao Claudio Ruggiroso. Ciao Claudio Chioda Rugginito. Oggi ti ascolto Santiago 5-6 Radio 4, finalmente riesco a tirarti fuori oggi, vai Giulio. Ok, ciao Gabino, bene entrato in ruota. Sì, vabbè anch'io già lo sento, poco, ma già lo sento a Claudio. Ciao Claudio, poi chi c'era in ruota con noi, Roberto mi serve, davanti Roberto. Ciao Gavino, ben sentito, dai, io mi aspetto un attimino, mi devo ordinare la pizza, dai, rimango tra qualche minuto. Claudio, il segnale tuo 9+10, radio 5, quello vabbè, ma probabilmente sei un po' attaccato adesso, dai. Ti lascio per qualche minuto, ci sentiamo tra poco, riprendete, dai, a chi tocca. Accudire. Dice Marco Condo, che vai Marco lì, riprendi e fai girare, vai. Ma come sembra che sta mangiandomi? Tutto gonfio. Gonfio sono, e era ora. Cosa te ne fa di 2-3009 se non fa 20? Boh. Ho capito, ma già. No, ho detto a Marco, ho detto cosa se ne fa di 2-3009 se non parla. Uno deve darla a me. Ah, è quello. serio. Io c'ho con le 4.000, fidurati, quello che mi ha dato Marco. Sì, ma non vedendo che piace molto 3.900, mi sa che me lo compro nuovo, se non me lo dà Marco me lo compro nuovo. Ehi, vabbè, ce ne sono barattini, vedi. Basta che ha tornato 34S o quello che... metti la maschera del 2009 e guarda il 2009. Non ci vuole molto, come ho fatto io. Io con il 4.000 gli ho messo la maschera del 2009. Perché quello di Giovanni gli ho lasciato la maschera del 34S. Sempre cavo fede, così quando c'erano... Vedete così quando metti più l'omologazione degli apparati che non erano omologati? E quello di effetti 250 che ci ho messo l'omologazione che avevo preso dalla portatile comprata a Lupi, figurati. Allora sono venuti qua, no qui, via di Zeno, in Mansata, Savessù mi fa, e questo apparecchio te l'ho comprato un mese fa, e te l'ho omologato perché omologato mi ha detto. E tu guarda dietro, qua c'è scritto, ho detto, omologazione, numero, marca, non c'è scritto, eh? E, si è omologato, lo puoi accendere, eccomi, acceso, gli ho detto, a valvole, quanto tira fuori, 800 watt, l'ha provato, ma con la stessa l'ha fatto il televisore, poi prima di andare mi ha fatto salvare, c'erano un po' di baracchini, un calascio, ha scritto apparato, non omologato in concessione. Ma te volevo messa che la multa per il microfono amplificato, la multa, te lo ricordi, Ari? No, per il microfono amplificato mai, non me l'ho mai messa, solo per gli effetti 250 l'ha messa. La multa di 80.000 lire era. Apparato, non l'ho mandato in processore, però avevo una quindicina di apparecchi, compreso anche lineare, BV131, le cose, altri lineari, ho detto questa è una roba mia, che ho detto. Ho detto se la vuoi scrivere, tu scrivila, poi tu te la dico di parole, me ne fai assai a me. Già te lo ricordi com'era in Mansata, già ci sei salito, già c'era il tavolo al centro, ci viene il sedo, è tutto pieno di baracchini era. Te lo ricordi quando facevi la radio di quartiere? Adesso per un mese mi ricordo il trasmettitore, così faccio la radio di quartiere, insomma. C'è, costa anche poco, un centinaio di euro costa. Ma bello, una 15 di watt, c'ha l'ingresso audio, c'ha... bello, il display digitale, lo puoi programmare come vuoi tu la frequenza. Kappa. Avanti Giulio, riprendi. Sì, riprendo, poi salutare, chiudo, dai. Ciao Gianni, Massimiliano, Antonello, Marco, Gavino e l'amico di coso, di Muros. Saluto a tutti, chiudo, ciao, ascolto fino a lì, poi chiudo, vai Massimiliano. Ok, ciao Giulio, vai, buona serata, buon tutto, ci sentiamo alle prossime. Va Claudio Chiodo. Sono rientrato, ciao Giulio, ben sentito, dai, chi tocca. Ciao Giulio, anche da parte mia. Avanti. Ciao Giulio, ci sentiamo, dai, con corretti e buona carica quando la fai. Avanti, chiodo Ruggini. Hai una bella radio. Eia, va bene, sì, io ti ascolto abbastanza bene, eh. Va benissimo, quindi avete messo a posto l'antenna, là. Sì, ma si sente comunque anche la radio che va molto bene, eh. La radio va bene, tutto a posto, ok, riprendi Natalino, ci sei? Io sono qua, ecco. Seguivi, già lo gioco, va bene, là, riprendi Alfa 21, riprendi tu. Aspetta un attimino, Breco, Fabrizio. Avanti Fabrizio. Ho rilanciato Alfa 21, un secondino già. Ho rilanciato, fai riprendere Riccardo, poverino, da poco fa che stava provando a rientrare, e poi girerà per Fabrizio per chi vuole, là. Andà bene, vai Fabrizio. Dai, riprendo io, no, un attimino, sto facendo un lavoretto, però volevo chiedere una cosa. Ciao Riccardino, saluto prima Riccardino, prima di tutto, e tutti gli altri. Ascolta, ho sentito Natalino, qual hai attaccato un altro microfono? Oh, Fabri, passa al 20. Un attimino, dai, vi faccio questa greca sul 20 e poi passo in quel rex. Ok, va bene. Io vado nel QTH piccolino invece. Vai, va bene, riprendo. Ok, è facile questa parola, poi vado a te che è rugginoso, a te non riesce a entrarti in mente. Ti devi chiamare rugginoso Claudio, così non sbagliare, è simpatico, dai, poi. Io ti chiamo sempre Claudio, quando poi c'è anche l'altro Claudio, a quel punto ti chiamo per il nominativo, perché io le persone le chiamo sempre per nome, non mi piace, solo se ci sono doppioni a quel punto per identificarli. Ok, cosa volevo dire? Riccardino, avanti a te. Poi chi c'è rimasto qua? Boh, a parte Gianni, dopo appena sentito, c'è qualche un altro oltre a Riccardo, era Talino, a me, Claudio, c'era Marco che era in QRX, Massimiliano, chi c'è che non ho nominato? Allora, poco fa è entrato un tipo in macchina da del Cappuccino, non so se ci sia ancora, ed è nuovo, stava provando una radio, voleva sapere come funzionava tutto qua. E poi è scomparso, poi ci siamo dimenticati e non è più entrato. A parte se c'è quell'amico il Cappuccino, deve essere andato via. Gianni, tu che sei appassionato di radio, cerca Superstar 4009 e poi mi dici cosa ne pensi. Cazzarola, aspetta. Io penso che più bello di quelli non ce ne esista, di baracchino base, però quello. Riccardino, avanti a te. Massimiliano. Vai al 30 un attimo. Aspetta un attimino, che non ho capito tutto il discorso. Riccardo, cosa hai detto? Questo ragazzo non si fida a spedirla, perché? Lo sai cos'è il problema? Devi fare qualcosa di rigido, una struttura rigida, ma diventi delle fecche. Finché te la compri dalla casa produttrice o da un distributore, da privato, molte volte la mettono col cartone, lo piegano, lo spaccano. Però se vuoi andare su quel tipo di antenna, quanto te la vende prima di tutto? Chi mi fai sapere? Quanto? Non ho capito. È quasi pronta, Cos'è Luca? Ho detto la pizza è quasi pronta, vieni a mangiare io tutti quanti. E già organizzeremo in questi giorni, dai, ci vuole spazio, che ci siamo un bel. No, l'ho ordinata io adesso la pizza. E 100 euro sembra un buon prezzo, però bisogna vedere perché se la sta cambiando questa l'antenna. Oh Robè! Dimmi Luca. Chi è rimasto? Allora c'è Claudio di Damuro, poi c'è Riccardino, Massimiliano e Claudio Sparviero si sono spostati, poi chi c'era? Natalino, non mi ricordo, adesso qualcuno l'ho perso in giro. Vabbè dai, vai tu per le cose, per doppio ru. L'ho visto, E beh, ti piace? Mamma mia, mi sembrava un HF, è una cosa spettacolare, guarda. Te lo sto dicendo, non ce n'è per nessuno, quello è il top secondo me. Ma poi non lo conoscevo, dai, fate girare, che sono un po' qua, un po' là io. Eia, allora Riccardi, c'è un amico qua in frequenza che lui le costruisce, le vende a metà prezzo di quanto le vendono, diciamo, ufficialmente. Luca, confermi, 80 euro le sta vendendo Luca Flipper. Luca. Quello si sta picciando di brutto. Lo sta trovando. Che avanti? Che sì, no. Eia, sto uscendo? Sì che sta uscendo. Quello si sta drogando. Adesso stai saturando però Tino. Saturando. Allora sta. No, c'è così in casa, No, adesso va bene, ma poco fa eri più forte di segnale, forse hai toccato qualcosa, buh. No, è fermabile. Guarda, non si può parlare con me, c'è proprio così un po' a caso, Ehi, ok. Riccardi, stavo dicendo, c'è questo amico qua in frequenza che lui le fa esattamente come le originali, diciamo più o meno, non dico esattamente, però funzionano, non ha fatto tantissime e credo che le stia vendendo a 80 euro, per cui puoi fare anche una prova, dici, dammela, la provo, se va bene, poi te la pago, si può fare così, oppure gliela paghi e poi, se non sei soddisfatto, gliela restituisci. Sì, già facciamo in modo di metterti in contatto con qualcuno, eventualmente ci facciamo dare il numero, io da qualche parte ce l'ho, non qua, in officina forse c'ho il numero, però voglio chiedere conferma a Luca, che lui è più pratico, che sa quanto le sta dando e dove fare, eccetera. Luca, ci sei? Ho capito, stai prendendo il capo qua sia. Ah, senza la canna da pesca la sta facendo 35 euro. Chi sei Luca? Danilo. Ciao Dani, la canna da pesca la Game Master? Sì, sì. No, vi stavo ascoltando perché mi sto costruendo lo stesso una di quelle antenne per il camper. Sì, sì, la 35 euro la sta facendo, solo l'antenna, senza la canna da pesca. Ma scusa un attimino, ma non c'è tutta la carica sotto, col cilindro, eccetera, eccetera? Sì. La stanno 35 euro, così può. Ma scopo in poche parole? Solamente la meccanica, l'antenna senza la canna da pesca, 35 euro. Vabbè, se invece la prende con la canna da pesca, anche ce la mette lui quanto ne vuole. Mi sa che era intorno ai 70 euro, una cosa del genere, adesso non me lo ricordo esattamente completa quanto la stava facendo. Perché lui la prende completa, mica poi va a cercarci la canna da pesca, poi magari non vanno bene le dimensioni, sono troppo strette, eccetera. A quel punto ti aggiungi qualcosa, e tra prima avevo sentito da Luca 80, tu adesso mi stai dicendo 70, 75, così, meglio ancora? Sì, è una cifra del genere era, 70, 75, magari anche 80, non lo so esattamente il prezzo esatto di quanto la faccia completa. Però senza la struttura, senza la canna da pesca, la fa 35 euro. No, vabbè, ma cosa, Riccardino? Lo senti a Riccardino di come la prenderà tutta intera, pronta a piazzare, gliela paga, se non va bene gliela restituisce, perché è inutile per male prendere l'antenna e non li rende quella zona. Io sono sicuro, se avete anche un cavo buono, cablata bene, eccetera, eccetera, dovrebbe sparare già con la Grand Plane, con la Mini Grand Plane, qua mi arriva 9 più 5, qualcuno male gliela arriva un po' più basso, ma guadagna tantissimo, quella è una 5. Sì, sì, quello già è vero. Ma adesso dimmi a quanto ti sto arrivando io. 9 più 10. Ecco, ho la stessa antenna di Luca. Solo che questa qua me la sono costruita io. Dove sei tu, in che zona, Daniele? Sotto Sant'Orsola Nord, Roda Quada. Ah, per cui sta andando alla grande. E presente, Riccardino è molto in alto, su a Filighedu in alto, per cui dovrebbe sparare, che è una meraviglia da lì. Se ci mette un palo, lui c'ha un palo di 6 metri, con altri 6 metri di antenna, per cui la musica cambia totalmente. Sì, ha voglia che cambia, anche perché sotto la bobina, se c'è molto più spazio, oltre i 4 metri, è perfetta quell'antenna, risuona moltissimo. E sicuramente sente anche oltre noi. Sì, sicuramente lui è un apertura. Ma poi, più o meno, a parte qualcuno che lo sente un po' debole, ma lui ascolta anche Muros, cioè Muros è un po' fastidioso, diciamo, da prendere. Porto Torres riesce a prendere, diciamo, è abbastanza aperto, lui non ha palazzi, c'è una leggera vallettina, almeno da come mi stava descrivendo, però con l'antenna, con l'altezza dell'antenna, più sui metri di palo, secondo me schicchia forte. Dai, sta già arrivando 9 più 5 qua, da me con la Grand Plane, figurati. Sì, tu Riccardia, quant'è che mi prendi a me di segnale? Come mi senti anche? Vedi, in poche parole, con questa antenna che mi sono fatto io è uguale identica a quella che vende Luca, e in poche parole quella di Luca te la tara esattamente alla frequenza che vuoi tu. In poche parole te la tara, io ti dico che ti tara l'1.0, 1.0 è farlo, non 1.5, 1.0. 1.0 è in poche parole un'antenna perfetta, alla frequenza che vuoi tu, al canale che vuoi tu. Sì, poi c'è un analizzatore dell'antenna, lui te la accorcia, te la allunga, fa tutto quello che vuole, senza perdere. Dimmi una cosa, Danilo, io come ti arrivo dalle tue parti, Santiago di radio? Di radio sei perfetto, di Santiago mi arrivi 4, picchi di 5, a volte anche 6, però è normale perché l'antenna mia non è tanto alta dal tetto, è a 1,5 metri dal tetto, quindi la devo sollevare ancora di più per essere più performante l'antenna. E come mai basso di Santiago 4 mi hai detto? Sì, 4, a volte 5, a volte anche picchi di 6 mi dai. Ma allora è un po' avaro lo Smith, perché gli altri come ti arrivano quelli di Sassari? Variano, ti sento molto potente, tipo è Claudio, Tino lo sento a bomba, anche 9,20. A Claudio lo stesso 9,10, però a Claudio lo sento non solo solamente su questo canale, ma se mi sposto anche di canali, almeno anche 5 canali più avanti o 5 meno, io a Claudio lo sento ugualmente. Vabbè, Claudio c'ha un'ottima posizione, molto in alto, sicuramente confronto a me arriva molto più forte. No, ma parlavo con quegli altri che ci sono, Luca, Doppio Room, aiutami l'altro, quello che c'è giù, Gianni Rubroffetta, come arrivano? No, allora lo stesso, di radio li sento perfetti, chiari, e di radio, di segnale, a volte variano, chi c'è a 4, chi c'è a 7, chi c'è a 9, fisso, tipo Muros lo smitter manco me lo muove, però lo sento chiaro. E a me come li senti? A te interi segnali 5 perfetto, e voce chiara. Dove sei tu? La Budi, Roda Guada, Sant'Orsola Nord. Non è possibile questo segnale. Guarda che non abbi l'RFG chiuso. No, è aperto tranquillamente, tutto quanto aperto è quello lì, il rap game. E qua arriva 9.10 Gianni, è 9.15 volato e siamo presso poco vicini, ciao comunque. Ciao, ciao. No, non è possibile, non è possibile che arrivi in quella zona lì con questo segnale. Poi è lo speaker che ha fatto. C'è l'antenna che non sta ricevendo. No, ho voglia che riceve questa antenna. già riceve. Ma è una cosa impossibile, Daniele, siamo presso a poco, in linea d'aria vicini noi. Gianni, io sono benissimo dove abita, qua mi arriva 9.10, 9.15 modulati, quindi se a te ti arriva a 7 c'è un problema, No, vedi, tu a me mi arrivi anche a picchi di 9. No, sai cos'è? Che io sono molto in basso. Io sono molto in basso. La strada di Sant'Orsola. Io me la trovo proprio alla punta della canna da pesca, quindi sono molto in basso. Infatti è per quello che io voglio sollevarmi ancora di più l'antenna. Almeno ci ho più spazio in ripresa al confronto agli altri. È lo smith comunque di Avvaro, perché il segnale qua è forte, 9 più 10 arrivo. Guarda, è una cosa che mi sembra strano, poi non lo so, guarda. Riprendete, ero ascolto, sto scrivendo un'email, quindi sono intervenuto per quello. No, ho detto che lo smith era Avvaro, probabilmente è starato come lo faceva un altro qua in frequenza, e lo smith che non sta funzionando bene. C'era l'altro giorno, sono andato da segnali troppo bassi e le radio 5, cioè con un Santiago di 4 non è impossibile che c'è una radio 5, almeno io per avere un Santiago 5 c'è una radio 5 deve essere almeno 9 con questa radio. No, infatti ti stavo dicendo, sicuramente perché io sono molto in basso. Sì, però stai arrivando forte, cioè non è il discorso di essere in basso, cioè la radio sta irradiando, per cui devi anche ricevere allo stesso tempo. O magari anche lo smitter come state dicendo voi. Però a volte lo smitter sale anche 9, 9.20. Magari ti ho detto qualche problemino, cioè anche l'inerzia col tempo un po' tendono a deteriorarsi, dai, sono degli strumentini ad ago, molto, molto limitato il movimento, magari qualche contraccolpo gli è arrivato di segnale forte, ma non è niente, l'importante è che ci sia la radio, dai. È il logico discorso che una radio di 4 venga, cioè una radio, un segnale di 4 arrivi una radio di 5, io il QRM ce l'ho a 6-7, per cui devo arrivare almeno a 9 per coprire il QRM e arrivare una radio 5. Scusa, vabbè, Daniele. Danilo. Oh, scusa, Danilo, guarda che segnale. Vedi, per quanto mi sta dando, mi sta dando 6 a te. Santiago 6? Sì. Giusto per dirti, no, con 250 watt. Ma vai, la fase dell'antenna, vai. No, ma se, no, non è l'antenna. Che ridere che... È lo smitter e basta, Dani, non ti preoccupare, basta, dai. Ma lasciamo perdere, non diciamo stupidaggine. Guarda, ti faccio anche le... Adesso mi ammazzo, te, questo sono il fatto dell'apparato, giusto per farti capire quanto sta volando. Sono 250 watt che sta volando. È impossibile che io ti arrivi Santiago 5, Santiago 6. Vabbè, comunque continua, se sei convinto così, per me va bene uguale. No, aspetta, ho tirato un colpo alla radio, è salito a 9.10, 9.20. Perché mi ho fatto fare il giro dello smitter, capito? Ma lascia perdere. Ma sai cosa devi fare? Prendere la radio e portarla per un vicchio. Vabbè, capita. Sono in quel X, comunque non è roba di antenna. Gianni. Tranquilli, è questo smitter che tu non ti ho arrivati giù. Gianni. L'hai visto il 4009? Sì che l'ho visto, bellissimo. Ma che si è fatto un po'? Cos'è? Guardati Superstar 4009 e poi mi dai la risposta a Tino, se ne hai mai visto cosa del genere. No, ne ho visto un altro, però dopo ti dico cos'è, aspetta che lo guardo. Sembra un HF. Sì. No, stiamo parlando di giocattolini, stiamo parlando di una cosa allucinante, l'hai visto, c'è al menu, più di un HF, sembra il TS2000 se lo guardi. Cos'è? Superstar 4009? Ehi, a base, stazione base. Cacchio, c'ha un'estetica da paura, c'ha tutto digitale, con menu contro menu, una cosa spettacolare. Però beh, ribadisco che a me piace sempre di più l'analogico del digitale. No, a me lo Twitter è sempre sempre bello analogico, però quello lì è una radio, un computer, non è una radio normale. Ti hai presente che probabilmente è l'ultimo che hanno fatto dalla cosa, dal Superstar, perché non ne ho visto apparati base con quelle caratteristiche, con quelle, è un sito di continua quasi, fa tutto, impossibile immaginarlo, va una marea di funzioni di registrazioni, eccetera, eccetera. A me piace Superstar, quello cromato, sto cromato, perfetto, mi piace. C'ha attacchi di due antenne, l'hai visto dietro, c'ha due attacchi, poi c'ha l'interfaccia per il computer dietro, quello lo può attaccare direttamente al computer, c'ha la RS-232 dietro, c'è un apparato, non so per chi usi possa servire, però è una cosa da fantascienza rispetto ai baracchini normali. Sì, sì, ho voglia. Vabbè, andate un attimo che finisco le mele e poi lo riprendo. Con quanti partecipi che non ho guardato, Roberto? Grazie per me. Scappa, vabbè, l'hanno chiamato, c'è tutta la sirena dell'ambulanza. O della polizia. A parte a chi tocca, anche da Ruggerito ci si. Ciao, ciao, ci sentiamo. Buona serata e buona carica quando la fai. Salutami tutti i componenti della famiglia. Scappa, scappa, va bene, dai. Ci sentiamo. Anche da Ruggerito, dai. A parte a chi tocca. Sì, sì, qui. Ciao Claudio, ciao, se mi ascolti. Sì, carta. Sono rientrato io. Vabbè, però questa sirena, buh. Vabbè dai, Tino, riprendo anch'io per salutarmi, che devo preparare la cena. Dai. Ci sentiamo, buona serata a tutti e buona cena come la parte. Eia, va bene, ciao. Ci si ascolta, vabbè. Ehi, chi è andato via? Gianni e Claudio, poi altri sono andati, anche tu sei andato via, Tino. Io sono un attimino qua, un po' in corriccio, un po' modulante, ma sto prendendo un'email e poi riprendo, va. Ehi, ok, ciao Gianni, ben sentito, dai, se ci sei magari ci sentiamo più tardi. Ciao, chi c'è? Buttino, Senquerix, poi Claudio lo stesso, buona cena, se devi farla, ci dovrebbe essere ancora Natalino, avanti Natalino. Ah, poi non c'è andato, questa volta c'è andato via Riccardi, ho capito male. Ehi, ok, quindi è rimasto Tino, Senquerix, tu e io, mi pare, non c'è nessun altro, c'era Natalino e c'è anche Marco Condor, quindi te la prendi con la radio, Marco, non c'è più. Guardati, fatti gli occhi, Riccardi, e scrivi Superstar 4009 su internet, se ce l'hai nel cellulare, guardati con la radio, se ti piace quel baracchino. No, stiamo parlando di due cose diverse, il tuo è un apparecchio bellissimo vintage, quello è uno di ultima generazione che è un computer, quello per attaccare un sacco di cose, puoi fare dei lavori, nel senso puoi pulire il segnale, c'ha un sistema digitale di pulizia del segnale, DSP si chiama, e poi c'ha, puoi attaccare due antenne, per dire, ti puoi mettere una direttiva da una parte e la verticale dall'altra, c'ha un commutatore davanti, c'ha un sacco di cose, è proprio un apparato completo, non so quanto possa costare, perché io non l'ho mai visto dal vero, l'ho solo visto in televisione, sul video e basta. Allora, le antenne Mantova sono tutte buone, Riccardi, però te le fanno pagare un sacco di soldi, non sono antenne economiche. Adesso, vabbè, con il coronavirus non lo so, bisognerebbe chiedere, puoi chiedere a tuo padre se va da Ore, grazie sarebbe, a Predaniera vicino a Coso. Rimane dove c'è, come si chiama, Enna, su quella zona di lì, dai. E prova a chiedere se gli è rimasta qualcosa, se ce n'è qualcuna e magari, non lo so, se no punti su quel fatto di quella che sta facendo Luca, che io ho sentito 70-80 euro, magari gli dici la posso provare, se va bene la prendi, ed è un'antenna abbastanza buona, diciamo, ce l'ha già nel doppio room, ce l'aveva adesso anche Danilo che la stava utilizzando, e possono dire che sono antenne che vanno più che bene, sono abbastanza semplici, non hanno grossi problemi di vento, perché sono delle verticali, tipo una canna da pesca, non hanno radialini eccetera eccetera, per cui sul vento hanno un'ottima resistenza, irradiano bene, ricevono bene, per cui con poco riesce a fare tanto. e adesso però mi ci ha alzato tanto il QRM, non ho capito, l'hai provata, con chi hai parlato, non ho capito. Ah, già chiamata, grazie, va bene, era l'unico che le vendeva lui, perché l'altro, quello che c'era in Via delle Conce tanti anni fa, ha chiuso. Io l'avevo preso da Grassi, le antenne, ne avevo preso due di lui. Io ti ripeto, la Tubo 2001 me la tengo di scorta, non si sa mai, se no poi mi trovo senza antenna, se no te l'avrei data io, te l'avrei prestata io. Vendere non mi interessa, ma la tengo, perché se non si sa mai, è sempre un'antenna. Quella che ho, la mia è perfetta, integra, non ha un difetto, però non si sa mai, è sempre bene averla. E così faccio, smontando una e piazzando l'altra. E vabbè, domani non lo so, perché devo vedere per il cavo, devo mettere un'altra antenna grossa, un'antenna grande di 9 metri, enorme, però la metto senza tirante né niente, la lascio verticale con un palo di 2,50 m e quella la posso utilizzare, la provo anche qua in 27 per vedere come irradia. Vabbè, va, mi ha scaduto, cioè mi ha scaduto, non riesco a andare di connessione, deve essere, cioè, segnale basso, sono rientrato, va. Ehi, attino. Ok, ma c'era anche Danilo, ci siamo dimenticati, Danilo ci sei ancora? Quando siamo entrati poi c'è la confusione, ti dimentichi di uno o dell'altro, e Natalino, se stava parlando, non so che fine abbia fatto, Natalino ci sei ancora? Massimiliano e Claudio si sono spostati, gli altri sono andati a mangiare, ok, mi sa siamo arrivati noi due solo, Riccardo, io sto aspettando la pizza da un momento all'altro, per cui appena mi chiamano dovrò interrompere anche io. Ok, vai tu Riccardo. Dimmi Tino, ma adesso mica c'è Riccardo, non sta cercando un amante, ma nessuno conosce che ne possa avere tu. Aiaia, chi ce la se la tiene, questa è una notizia un po' brutta per te, però perché sono antenne, ma c'era Sirio molto, molto simile alla Mantova, che io preferirei più della Game Master, però sinceramente, sai, sono quelle cose che dovete provarle entrambi nella stessa altezza con la stessa radio, e poi puoi valutare, questa è la mia cosa, la mia decisione. Vabbè, una cortesia, devo provare un alimentatore, un amplificatore, poi mi dovresti dire se cambia la radio, di segnale, vabbè, aumenterà, sì, sicuramente, però vorrei che non cambiasse la radio, se va in saturazione o meno, perché dovrei regolare il carrier più che altro. Prova quando vuoi, sono qua a disposizione. No, vabbè, questa è la classica modulazione che sto utilizzando io, poi io ti prendo l'orecchio e ti faccio l'altra. Allora, aspetta un attimino che abbasso il braccio per l'entrata, la stramando. Ti sei abbassato molto il segnale comunque? Sì, sì, quello sì. Volevo sapere se va a distorcere la radio, se devo aumentare o abbassare qualche cosa. No, assolutamente no, va benissimo. Fammi il passaggio senza essere attaccato, addirittura mi sembra anche meglio attaccato. Prova un po'. Allora, così è attaccato. Un attimino, scusa, Questo è un amplificatore a valvole, quindi abbiamo una cordatina, un attimino. Bene, dovrei essere accordato. Così è con l'ampli. L'abbiamo voluta un'antenna che fa di 1.0 per un bel poco di banda. Bene, e così invece è senza ampli. Guarda un pochino se è cambiata la modulazione anche. No, non è cambiato niente, addirittura proprio se vuoi essere proprio pignolo, quella con cosa attaccata è un pochettino più naturale, ma è un pelutino a livello proprio strumentale, se no quasi uguale, sono perfette tutte e due belle. Io voglio fare una cosa per me, aspetta un attimino, mi sono proprio abbassato, aspetta. Un attimino. Ecco, così abbiamo accordato. Guarda se cambia, ma scusate, se cambia un attimino facendo questa regolazione qua, ecco qua, guarda un pochino se ha cambiato di radio o ha aumentato appena il cadere. E adesso sta iniziando a saturare. Bene, giusto per saperlo io, lo riporto lo stato naturale, così dovrebbe andare bene. Sì, sì, puoi toccare qualcosa, fammi un'altra regolazione, a vedere se cambia qualcosa. Beh, vabbè, posso così, do meno watt, anzi, ti richiudo tutti, guarda, ora 1, 2, 3, non so se l'ho passato e se ha migliorato la radio, però. No, no, va bene, non cambia nulla, tutto a poco. No, mi era sembrato un momento che cambiasse qualcosa, ma è rimasto invariato. Quando quando hai toccato qualcosa eri un po' saturo. Sì, ho toccato il carrier, infatti mi sono arrivato in maniera impressionante, è millimetrica la regolazione, quindi devo stare attento così. Allora io qua gli sto dando, cioè modulati proprio esagerando, gli sto dando 6-7 modulati, quindi tieni presente che cosa sto utilizzando, sai benissimo cosa sto utilizzando, e però di fatto me ne sta andando di meno. Vediamo un attimino, scusa. Allora, io la massima portata ha cambiato qualcosa? È qualcosina, diciamo un pochettino saturato, sempre chiara la radio, però un peluzzino peggiorato. Va bene, adesso l'ho passato nuovamente, me ne accorgo perché quando devi giustamente meno quattro di entrata la radio è più bella. Bene, così va bene comunque. No, eccellente, va benissimo, ti ho detto valvole non ce n'è per nessun altro che transistor, per avere le stesse prestazioni devi spendere migliaia di euro con amplificatori super sofisticati, ma non sono molti che li costruiscono. Guarda, io questo qua sinceramente me lo stavo vendendo, per quello che l'ho pagato io tempo fa l'ho pagato intorno alle 300 euro, lo stavo vendendo oggi come oggi, lo stavo vendendo a 200 euro, non so se vale la pena venderlo o ottenerlo. Dammi un segnale in questa maniera qua e poi mi dici attaccato quanto mi viene a passare. Questo è attaccato. Se 9 più 15 con i picchi a 9 più 20. Beh, e questi sono il vato della radio senza niente. 9-10, i picchi arrivano a 9-10, diciamo quasi 9-10 spaccato, dai. Io non è lontanata a prendere di più, da 7 a 9, 9-10, insomma dipende da dove sì. Allora addirittura a Porto Torres ieri sono arrivato 9-25, dipende anche da chi ti ascolta, quindi non è che è sempre tutto da vedere. Vabbè, non mi interessava la radio se andava in saturazione o meno, ho capito come pilotarlo, ecco. No, va benissimo Tino. Sei presente che 5 punti S sono tanti, 5 dB di coso sono tantissime. Ma vicino, in lontananza, rende molto di più, hai capito? 4 da 7 a 9, 9, 10 è tanto. Io ti sto dando delle indicazioni precise con lo switcher che è tarato, questo qua, a 150 microvolt d'ingresso, non è un baracchino, anche i baracchini, l'hai visto poco fa, c'erano indicazioni completamente sballate, questo è preciso perché c'ho anche altri apparati e sono tutti e due identici, non cambia la virgola, le regolazioni. Bene, no, infatti, è sempre un po' così, se venderlo o meno, va bene, ti ringrazio. Ok, se lo usi ti conviene tenertelo perché è un ottimo apparato, non so di cosa stai parlando, però a livello prestazionale è ottimo, non fa ronzii, non si sente niente di strano, la pulizia della modulazione è perfetta, per cui se lo usi te ne dillo, perché poi potrebbe pentire amaramente, tanto non penso che 200 euro ti facciano ricco. No, ma sai cos'è, che va bene solo ed esclusivamente per la 27, cioè quindi non è che interessava altro, capito? Però vabbè. Allora, se per migliorare tanto quanto, per rimanere simile te ne dico, almeno sei sicuro che funziona. Vai Erika, ok Erika, dai, buona carica e buon tutto, dai, anche io sto aspettando da un momento all'altro, arriva la pizza, mi hanno detto che arriva in un'oretta, siamo già quasi al limite, dai. Buon tutto, poi se qualcuno c'è, se coincide magari ci sentiamo, se ci siamo dopo, se no ci sentiamo eventualmente domani. Vai Tino per Riccardo. Beh, va bene, ciao Riccardo, dai, buona carica, buon tutto, se ne voglia più tardi. Ciao ciao. Ma Danilo ci sei ancora? Poco fa è stato qualcuno, ha fatto un commento sull'antenna, mi sembrava Danilo. Avanti Danilo, sei tu? Non lo so. Ok, vediamo se nel frattempo su 10 è rimasto qualcuno. Attenzione 10, chi vuole entrare? Sono Paolo Falcone. E Antonello mio, ne tanto entri, esci. Che esperimenti stai facendo Antonello? Masu. Ciao Arti, no, stavo facendo i piatti per esempio, gli esperimenti fatti stasera con quel baracchino, con quella bandino di baracchino, l'ho preso. Basta. Ti lasciate il microfono girato, non me ne frega niente, non fare smettiare, cazzo, con un macchino omologato, ma te la potrebbe tammare. Natalino comunque ha messo l'M93 e ti posso dire funziona, non è eccezionale ma molto più forte di prima. Infatti ho provato qualcosa, c'era lo stesso baracchino, meno male ho portato lo stesso baracchino su, quindi l'ho fatto qualcosa, hai capito? Sono prima del 24, cioè prima ho fatto Gavino, ho detto che sono proprio a pagare l'acqua, ho riscattolato il tutto. Io ho pagato 60 euro qualche cosa, quel microfono, ho dato 50 euro, nuovo nuovo di banca, di negozio proprio. No, l'ho comprato un mese fa, per esattezza. Sì, dai, io adesso vi devo lasciare, dai, perché sono arrivate le pizze, dai, ci sentiamo eventualmente dopo, se coincide, dai, ciao Tino, ciao Antonello e tutti gli eventuali amici in ascolto, cuore ti da parte mia, ciao ciao. Ciao Robe, ciao, buona carica, ci si sente se ne voglio più tardi. Vai Antonella. Comunque Antonella, hai c'è il microfono nuovo e sei molto amplificato? No, non è quello lì, ma chi è magari quello lì. Ciao. No, è coso, il polma, capito, che dentro la capsula c'è un altoparlante a potenza, c'è una capsula di microfono, quindi ti ricordi le portate degli anni 70, a posto di usare la capsula c'avevi in pratica l'altoparlante che faceva anche la microfono, è la stessa identica cosa, ma ci vuole una cosa del genere, ci vuole. Di quel tipo di baracchino monogatto. Ho capito, Andrà bene a me, dai. Va bene, dai, Antonella. Rimango un attimino qua, così che sto facendo molti mille, non riesco a terminarla. Era, trovo qua e trovo là, a portare via, quindi stiamo sempre mollando qua e riprendendo una parte, riprendendo l'altra, non riesco a finire. Dai, se coincide più tardi, Antonella, dai, così mi finisco questi mille. Vabbè, io sono all'ascolto, non c'è problema, tanto sto occupando di cose, no? Sto facendo pulizia di casa, quindi a un certo punto, adesso mi dedico a quello. A dopo, dai, ciao. D'accordo, anche io, dai, ciao, vai, ciao, sono in casa. E io altrettanto, ciao. Che è avanti? Ah, passa, vai, un'ora, mala. Cazzo, bene, buon'anima, già mangiato, hai ballato. Mamma mia Antone, veramente è una cosa inascoltabile, si sente più rumore di TV, di gente che parla, che non la tua voce, è una cosa troppo forzata, cioè così non è uscire bene, dai, ti sei uscito molto meglio. Adesso l'ho abbassato, ti va bene? Ecco, adesso sento persino la tua voce, è eccezionale. Eccezionale. Data, abusivo. Zitto tu cuocomane. Voi due mi... scusate, non so chi c'è rimasto qua. Credo nessuno. C'era la voce prima, io ero su altri canali a fare sia Antonello che Natalino. 1, 2, 3, 4, 5. Bene. Ok, va bene. Mamma mia, che razza di situazione. Insomma, alla fine cosa fanno il 4? Aprono le chiese e poi cos'altro? Cosa devo fare? Uscire per andare in chiesa io? Ma io voglio andare a Platamona, non in chiesa. Anche io, se mi permetti. Ho sentito Concetta, cosa ha detto? Io quando apro il 4 vado nei bordelli, dico, sto andando la mia cugina. Eia, c'era un break lontano, chi è? Nicola, caspita, non ti ho riconosciuto da quanto sei basso, non è il tuo segnale, è veramente basso. Vieni avanti di nuovo che do un'occhiata. Sì, allora, tu arrivi 7, il QRM è 4, Santiago 4, il rumore di fondo, però la tua modulazione non sembra forte come al solito, come dire, sembra quasi più blanda, non lo so perché. Lo copiate? Io no. Sì, copiato alla finestra, ok. Sì, no, ma ne risentivo anche la modulazione, però, ho notato. A differenza magari di altre volte. Ok, allora loro non ti ascoltano. Forse Natalino ti ascolta, Natalino senti? Ma basso, non è la sua solita modulazione. Eia, vediamo un po' cosa dice il governatore della Sardegna. Allora, passeggiate e allenamenti, passeggiate a piedi, in bicicletta, attività sportive, parchi e giardini, obbligo di indossare mascherina e distanza di sicurezza. Sì. Bar e ristoranti non ci devo andare, sport lasciamo perdere, seconde case puoi andare, vedi Natali, puoi andare in campagna liberamente nell'altra tua casa, voglio dire, no? Già capito. Navigazione, pesca, caccia. Autorizzate, vabbè, tutte menate, dai. E comunque sempre ci vuole, presumo, il giustificato motivo. Se ti devi giustificare per andare all'interno del comune o quello che è. Boh. Praticamente non è cambiato nulla. Per esempio, che so, profumerie, negozi di abbigliamento, calzature potranno ricevere solo su appuntamento. Ma andate a cagare, scusate il termine. Sei proprio uno stato di polizia che è venuto a creare. E chissà quanto durerà. Quindi devi giustificare ogni tuo spostamento. Guarda, va, lasciamo perdere. Nicola, ci sei? Ha migliorato Santiagotto Cillante e anche vabbè la radio in proporzione è migliorata, dai. No. Allora, guarda, sulla Nuova Sardegna online, comunque il segnale 9, ho guardato adesso è 9. C'è questo regolamento dato dal governatore della regione o quello che è. Sto cercando di leggere, ma penso che comunque gli assembramenti sono vietati sempre. Aspetta che leggo. Ma infatti non ha senso. Allora, seconde case o parenti, via libera anche agli spostamenti delle famiglie, si parla di nuclei familiari conviventi, nelle seconde case, ho letto anche qualcosa comunque per le visite a parenti. Comunque sicuramente cercheranno di fare multe, sanzioni, sia tenendo conto del regolamento nazionale e anche quello regionale. Cercheranno di spremere tutto quello che si può spremere, dai, quello si è capito. No, non credo. Non credo più, parla di seconde case, di nuclei familiari, quindi magari con mascherina dentro la macchina, boh. E appunto se ci dormi assieme, giustamente con la consorte, non ha senso metterti la mascherina dentro. Vabbè, comunque bisogna leggere l'ordinanza, perché quello che dice il giornale è un riassunto, diciamo. Bisogna cercare l'ordinanza di Solinas, così si chiama, e vedere bene com'è. Ma dico che siamo quasi 2 mesi chiusi in casa, quasi, fra poco ci arriviamo. E ne ho le tasche piene, la salute mentale ne soffre. Io il giorno che comincio a sbarellare, vado dal medico di famiglia e mi faccio rilasciare un certificato per depressione, che ho necessità di uscire, di andare all'aria aperta, in campagna, a Platamona, tutto quello che mi viene in mente, per motivi di salute. Poi voglio vedere chi lo contesta. Marco! Ui! Ma mi senti? 9! Ah, perché tu sei 9? La radio come va bene? Ottima, eccellente, quella radio è un bijou. Ah, perfetta, veloce. Ma chi è rimasto? Con chi stai parlando? Allora c'è Lupo Grigio col portatile, poi dovrebbe esserci Natalino e Pomponio, che ovviamente non riprendono. Ah, Pomponio ci sei? Natalino ci sei? So che ci sono. Ah, c'è quel buon cuore Natalino, poi non lo sento. Non lo senti? Che cavolo? C'è Luca, Natalino, senti Luca? Lui non ti sente. Se, boh, Natalino mi senti? Ah, ti sento, benissimo, ti sento. Ah, vero? Ah, già, lo senti allora? Bene, bene mi senti tu di radio. Insomma, bene, no, comunque ti sento, là. Segnale 5 mi sta arrivando, radio 3. Marco è l'unico che arriva forte qua, è l'unico. E Marco è pirata, è abusivo. Ma Marco, anche Franco, sì, Marco e Franco, questo è il segnale. So che tu hai la radio più forte, Franco. Buonasera Marco, buonasera Natalino. Ciao Franco. Sì, è un bijou di modulazione quella di Franco. E tocca a ferro, Fra. La madre del microfono già è di ferro, già è metallica. Mi dispiace che ho consumato tutta la targhetta sotto con le diciture del tipo di microfono, non si legge più nulla quasi. Eia, Pomponio si è allontanato, se no c'era anche lui. Ok, dai. Puglia altri sono sul 30, stavano facendo prove di microfoni, eccetera. Io giusto sono entrato franco, vi lascio tra di voi, vado a pigliarmi il caffè. Ci sentiamo fra poco. Ciao, vai fra. Capo, Natalino ha parlato assieme all'inizio. Buon caffè allora, buon tutto. Beh, a te che prendi il caffè di notte, va bene.